Tu sei là? Boh. No, siamo qua. Oh? Vabbè, dai. Perché non avesse capito? Se ne accorgo. Allora, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui a Librecoma, una giornata di sole favoloso, quindi già per questo noi vi ringraziamo di essere qui ad ascoltare parole, conversazioni, autori. L'incontro che state per seguire lo abbiamo chiamato il gran lettore, perché in questi anni Goffredo Tofi ha letto, ha scritto, ci ha insegnato, ha aiutato a conoscere molti scrittori, e quindi sarà l'occasione per parlare di quelli che ha attraversato, che ha studiato in tanti anni anche insieme a Mariano D'Alfano. Lui dice di no, perché abbiamo un po' cercato di costringere questa cosa, e con l'aiuto di Mariano Dotti, che tanti altri ne ha incontrato, non solo scrittori ma anche grandi nomi del cinema e della nostra storia recente, che ha incontrato e intervistato, che l'ha raccolto in questo libro Prove d'ascolto. Adesso vediamo se con questo gioco tra di loro, con questa conversazione, riusciremo a entrare, non so, in nomi come John Berger oppure Toni Morrison, oppure se ne verranno fuori altri. Per esempio stamattina sull'insetto cultura del Sole 24 Ore, oggi Goffredo Fofi segnala il libro di Adele Corrado, che è una collaboratrice di Don Lorenzo Milani, la scuola di Barbiana, forse è un'altra storia, un altro libro di cui si può raccontare. E dopo di loro, io ve lo anticipo perché è una cosa alla quale teniamo molto, questa sala, la sala Risonanze, che è un posto bellissimo, è quello che stiamo usando in questi giorni per gli esperimenti, cioè per le discussioni che guardano un po' al futuro. Prima c'è stata una tavola rotonda sul self-publishing, forse una nuova direzione, prendendo l'editoria e la scrittura. E dopo di loro ci sarà invece una maratona che abbiamo chiamato Come il futuro, articolata in tre momenti: avere, sapere e potere. Avere sarà un momento dedicato al futuro dell'economia e del lavoro, sapere al futuro della cultura, e potere al futuro della politica, della democrazia, della partecipazione. Dico una formula nuova, un esperimento, perché abbiamo chiesto alle persone che interverranno di prepararsi per un quarto d'ora sul modello di quelle TED Conference, forse alcuni di voi avete sentito parlare, sono dei momenti molto brevi, un quarto d'ora di interventi. Ma tutto questo è per dire che tutto questo pomeriggio si svolge poi all'insegna delle proiezioni sul futuro, perché poi la giornata di oggi e comunque la terza edizione di Librecoma sarà conclusa da Sergio Antonov, che terrà una lezione sul futuro della democrazia, cosa enorme, complicatissima, sulla quale penso che anche Goffredo Fofi e Mariano Dotti forse avranno qualcosa da accennare. Io rilascio a voi, e alla fine, se avrete voglia di fare qualche domanda, di discutere con loro, questo sarà possibile. Intanto vi ringrazio e buon divertimento. Comincio io per chiarire un equivoco. Noi avevamo proposto come casa editrice Edizioni dell'Asino di fare qui una presentazione del libro di Mariana Dotti, che si chiama prove d'ascolto, incontri con artisti e saggisti del nostro tempo, una raccolta di interviste e di interventi di Maria. Marino Sinibaldi, mio amico dal 1900, non so quando, insomma da qualche secolo, da quando lui era bambino io ero già adulto e corruttore di giovani, e insomma, ha trasformato questa cosa in una, no? In una cosa che è come se lei dovesse intervistare me, mentre è il contrario, sono io che devo intervistare Maria e che voglio intervistare me. Siccome anche Maria ci conosciamo da una vita, non ci sono i più veci possibili e quindi discuteremo tra di noi delle cose che ci interessano, però a me interessava invece in particolare un tema e su questo proprio comincerei. Il tema che riguarda un po' questa iniziativa in generale, libri come, non libri perché, ma libri come si fanno i libri, in questo caso libri di interviste, come si fanno le interviste, cioè più in particolare come si vanno a intervistare, come si intervistano, come ci si rapporta a delle persone molto note e molto, in genere quelli che amiamo intervistare sono persone che amiamo per l'appunto, persone che stimiamo, che ci piacciono e dai quali vogliamo apprendere qualcosa che riguarda anche noi direttamente, non fare solo i mediatori nei confronti dei lettori, di altri, o informatori, ecco, quindi qualcosa che ci coinvolge profondamente. Allora, il metodo dell'intervista è molto vario, però negli ultimi tempi, negli ultimi decenni si è un po' stabilizzato su un modello più o meno fisso, che a me piace anche molto, l'ho praticato moltissimo, che è quello della domanda e risposta. Una breve introduzione, poi c'è il corsivo di chi domanda e il tondo di chi risponde. Non è stato sempre così. Una nostra grande amica, Camilla Cederna, amica e maestra sotto molti aspetti, era disgustata dall'uso del registratore e disgustata dalle interviste fatte domanda e risposta. Lei voleva essere lei la protagonista dell'intervista, cioè sono io che vado a intervistare, mi ricordo una bellissima intervista con Giorgio De Chirico. De Chirico è un personaggio anche bizzarro, strano, con una storia, con tanti aspetti nella sua personalità interessanti da vedere. Vado e osservo, guardo, studio, in genere sono interviste piuttosto lunghe, 2-3 ore, insomma, anche a volte anche ripetute più di una volta, appuntate in qualche modo, e quello che veniva fuori era quello che nel giornalino veniva chiamato molto male un pezzo di colore. In realtà venivano fuori dei ritratti, veri e propri ritratti di un grande artista, di un grande scrittore, o in certi casi di un politico, nel caso della Cederna, di una famiglia di industriali. Mi ricordo una meravigliosa intervista alla famiglia Marzotto, dopo che a Valdagno era stata nel 69 buttata giù dagli operai della Marzotto la statua del fondatore che c'era in piazza, gli operai arrabbiati la fecero cadere al piedistallo. Lei andò tranquillamente a pranzo da questi signori e ne ricavò un pezzo straordinario di descrizione di che cos'era la borghesia allora, la borghesia veneta, la borghesia imprenditoriale settentrionale. Quindi l'intervista in quel caso era qualcosa di molto più originale delle cose che noi riusciamo a fare, perché questo modello invece è nato con la Paris Review. La mia memoria, la prima rivista che ha stabilito questa metodologia tra domanda in corsivo e la risposta in tondo, è stata la Paris Review. Lo si può documentare oggi perché Fandango ha ripubblicato 2 o 3 volumi delle grandi interviste con i grandi scrittori fatti dalla Paris Review in passato. E subito dopo è stato ripreso come modello dai Cahiers du Cinéma. Domanda e risposta sono diventati la chiave e hanno avuto, come dire, dei pregi enormi, perché per la prima volta gli autori, gli artisti, nel caso dei Cahiers della Paris Review, gli scrittori dei Cahiers, i registi, erano in primo piano, dicevano la loro, erano loro i protagonisti, però con un limite molto forte, che essendoci dall'altra parte un intervistatore assolutamente reverente, quasi che strisciava davanti al grande regista americano famoso o al grande vecchio delle lettere e delle arti, ne risultavano i grandi artisti primo ripetono sempre le stesse cose, giustamente, perché non è che cambiano idea ogni 5 minuti, magari se si va a intervistare a distanza di 10 anni si trovano risposte diverse, ma se si va un mese dopo che c'è già stato un altro dicono le stesse cose, anche a volte imbarazzante ai festival, se si va a intervistare un regista si resta estremamente delusi perché dice al Corriere della Sera la stessa cosa che ha detto alla Repubblica, che ha detto all'Unità, che ha detto all'Espresso, che ha detto a Panorama, che ha detto a tutti gli inviati stranieri che l'hanno intervistato di corsa uno dopo l'altro. E per cui il limite diventava quello che si dava troppo spazio all'autore, si dava troppo spazio all'artista che così si costruiva un po' il suo monumento. Nel caso del cinema è anche un po' paradossale, io credo che ci siano mediocri, addirittura pessimi registi che sono stati intervistati nel corso di un anno o due della loro carriera, più che Virginia Woolf, Gerald Joyce, Leone Tolstoi, Fyodor Dostoevsky, non so, potete fare tutti gli scrittori moderni da quando esiste la stampa come mezzo di informazione fondamentale, più di quanto tutti loro siano stati intervistati tutti insieme, insomma, è una voga recente, è una voga che fa parte anche, è diventata parte della società dello spettacolo. Quindi è un modo molto delicato da trattare, diventa difficile fare una bella intervista, perché? Perché intanto si va a intervistare una persona che ha detto delle cose più o meno simili a tanta altra gente prima di noi, si va a intervistare una persona che rapidissimamente è stata, come dire, utilizzata, intervistata velocemente da pessimi giornalisti che non sapevano un accidente delle sue opere, della sua personalità, ma che guardavano Wikipedia su o una volta sfogliavano le enciclopedie gazzanti e le vocine e andavano e gli facevano sempre le stesse domande, sempre le stesse domande, perché le risposte erano ovviamente sempre le stesse risposte, un rito pubblicitario, non un rito culturale, non qualcosa che serve all'intervistatore per capire qualcosa di più dell'intervistato, all'intervistato per approfondire qualche problema che magari si è stimolato bene, no, può tirar fuori e magari nessuno l'aveva fatto prima dell'intervistatore di quel caso, insomma diventa un vero colloquio e un vero aiuto alla comprensione di un artista e della sua opera. Il caso di Maria in questo libro e in tutto il suo lavoro è quello, è ancora un caso più particolare, perché è quello di, come si può dire, Maria ha una forte personalità e non va a blandire, a leccare il sedere alle persone che va a intervistare, si confronta con loro, ha qualcosa da dire, anche ha delle critiche da fare, delle opinioni diverse da affermare nei confronti di molti dei problemi che questi scrittori o questi artisti hanno trattato, delle loro opinioni note in generale, perché ci sono nei libri che hanno scritto, eccetera, eccetera. Non si mette alla pari, ma si mette appena pochi gradini più sotto dell'intervistato. Non perché si sente, non per orgoglio o per megalomania, ma semplicemente perché ha capito molto presto che quella è la chiave giusta per riuscire a stabilire un confronto positivo e utile per il lettore, non solo per l'artista, non solo per lei medesima che va a intervistare, ma soprattutto per questa terza persona, questa terza figura che nel caso delle interviste dovrebbe essere la figura dominante, no? Si parla, si fa questo lavoro in funzione di questo terzo. Ecco. Allora, io comincerei chiedendo a Maria il suo metodo di lavoro, cioè, semplicemente, insomma, se queste cose che ho detto ti sembrano le fesserie, dico che sono mi ritrovo proprio bene, se dovessi condensare ulteriormente direi che per riuscire a fare un'intervista che restituisca quella figura che si vuole intervistare, ma anche la figura dell'intervistatore, perché l'intervista è fatta dall'intervistatore, essenzialmente. L'autore, l'autrice, l'artista, uomo, donna, l'uomo di teatro, la donna di teatro che viene intervistata è sempre la stessa. Se si leggono 10 interviste diverse a questa stessa persona, vengono fuori 10 figure diverse, tranne appunto quelle fatte a macchina, che ormai si fanno le conferenze stampa, non si fanno più neanche le interviste, si ammucchiano i giornalisti in una stanza e e l'intervistato risponde una volta sola a tutti, poi quelli devono cercare di fare delle differenze. Quindi no, senz'altro ci vogliono due io, due tu. Metodo di lavoro, io faccio un po' fatica a dire, perché il metodo di lavoro me lo sono costruito lavorando. Io ho cominciato a fare interviste da New York all'inizio degli anni Ottanta. Una cosa importante da dire per capire meglio è che io sono arrivata a New York e non parlavo l'inglese, quindi l'ho imparato lì, ascoltando, leggendo, andando al cinema, facendo delle sceneggiature perché non capivo cosa dicevano. Io ho imparato molto presto, quella che secondo me è la cosa fondamentale per fare una buona intervista, che è appunto ascoltare. Non è un caso che io abbia voluto intitolare questo libro Prove d'ascolto, è un titolo che mi piace moltissimo. Ascolto perché appunto non c'è intervista, come non c'è mai niente, non c'è nessuna relazione se non si ascolta. E l'ascolto, il buon ascolto, non è solo il tuo che ascolti l'altro, e anche la capacità di creare nell'altro un desiderio di ascoltare te. Quindi è molto reciproca per me questa cosa. Per cui certamente, ed è poi il secondo pezzo del titolo, prove, perché si continua a provare a saper ascoltare e a saper stimolare quella capacità d'ascolto. La si mette a punto di continuo e di continuo la si perde questa capacità. Non è uguale con tutti e con tutte, per esempio. Io lo ricordo perché è andata così, ci sono state almeno due interviste che io, l'intervistatrice, ho interrotto dicendo non mi interessa. Uno era con Mikhail, la regista, quello di Oggi Giorno, che aveva voluto che fossimo in quattro a intervistarlo. Io molto, dovevo farlo per Panorama, io molto diligentemente, anche se mi sembrava aberrante la cosa, dissi ok, proviamo. Alla terza risposta di questo imbecille dissi io di lei non scriverò mai, mi alzai e me ne andai, per un altro. È il regista ufficiale del quale regime putiniano, come lo è stato dei regimi precedenti, da Cruscio in avanti. Però vale la pena, appunto. Poi vi dirò un'altra cosa. E la seconda invece con quello sciaguratello di McEnroe, uno di quelli. Ricordate l'epoca del minimalismo nordamericano, quando Fernando Pivano si innamorò di questa, dei minimalisti nordamericani, ce ne furono due o tre di grande valore, ma non tutti. E certamente McEnroe, quello di come si chiamava? Bright Light, di quello sopra. Sono già finiti, però anche lì effettivamente sapete quando uno è lì con l'orecchio molto teso per ascoltare ma non arriva nessuna voce, e poi appunto quel narcisismo che era tipico di quegli scrittorelli lì, era un narcisismo che faceva cadere immediatamente la possibilità dell'ascolto e della parola di tutti e due, credo. Fatto sta che anche lì dissi, guardi, non sono un'intervistatrice giusta per lei, andai, e lo lasciai solo per caso, non c'erano altri giornalisti. E vabbè, quindi questa cosa dell'ascolto secondo me è interessantissima, e secondo me, se dovessi dire adesso, a quel segno di poi, qualche traccia di metodo, che però non so se sia riproducibile, poi appunto, non dire fatto come fatto, certamente non è un problema di mettersi sotto o di mettersi sopra o di mettersi sullo stesso piano. Sotto non è bello mettersi per definizione, sopra è ancora più odioso. Sullo stesso piano non è realistico, perché io non credo assolutamente di potermi considerare all'altezza che so di Vonnegut. Non è quello il punto. Il problema è mettersi in una posizione tale per cui ci si può guardare e ascoltare e incuriosire reciprocamente. E un'altra cosa che secondo me è importantissima per me e che potrei definire di metodo, io ho capito che perché le interviste funzionino non si può, è proprio vietato andare dall'intervistato o dall'intervistata con una lista di domande rigida. Come del genere mi preparo le mie 20 domande e cascasse il mondo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Perché non va così le relazioni, non vanno così. Le relazioni vanno, appunto, Goffredo chiede una cosa a me, io parto per la mia tangente, lui mi ascolta e alla prossima domanda è quella che aveva preparato. È chiaro. E sono delle cose impercettibili che non hanno necessariamente a che vedere col contenuto della risposta. Vi faccio un esempio per me clamoroso. Nelle interviste i corpi contano, gli spazi fisici contano, quello che si tiene in mano conta, l'uso del registratore o non l'uso del registratore, prendere appunti o non prendere appunti. Nelle case degli intervistati o in spazi pubblici, tutte queste cose messe insieme, è chiaro che un intervistatore dotato di un minimo di sensibilità relazionale non può non andare dietro a quelle cose. Louise Bourgeois, che io ho intervistato quando era ormai famosissima, non in Italia, però era ormai famosa ed era molto anziana. Louise Bourgeois, come spesso capita ai grandi, odiava le interviste, odiava, e fu un corpo a corpo, letteralmente un corpo a corpo con Louise Bourgeois. Continuava ad alzarsi, a muoversi, aveva una casa molto labirintica, per cui continuava a sparire, per una donna piccolissima, continuava a sparirmi davanti agli occhi. Si alzava e tornava con delle cose. A un certo punto torna con un foglio di carta, un pennarello rosso e disegna una cosa rossa. E mi dice, vedi che cos'è? E mi dice, è una melagrana con tutto il succo spremuto. Bene, questo è quello che tu stai facendo a me. Mi stai uccidendo, mi stai facendo male. Voi capite che qualunque lista di domande che avessi preparato, a quel punto l'oggetto era quello, era proprio quello. E da lì non poteva che venire fuori quella che era stata la grande intuizione di artista di Louise Bourgeois, che è uno che ha lavorato per tutta la vita sul tema del massacro reciproco, della violenza che si esercita anche nei rapporti cosiddetti d'amore, per esempio. Quindi, appunto, tanti altri. Altra una cosa importante da dire, secondo me. Per intervistare bene bisogna che l'intervista sia preziosa per l'intervistato, non perché gli farà vendere più libri, ma perché lì succede qualcosa, è molto strana la relazione di intervista, perché in fondo gli intervistatori sanno molte cose degli intervistati, hanno letto le loro opere, hanno visto le loro opere, probabilmente le hanno già viste in azione, hanno visto i loro film. Sono in una posizione di vantaggio obiettivo. L'intervistato non sa niente dell'intervistatore. Si vede capitare, in caso comunque sia, uno sconosciuto, per lo più straniero, per l'appunto. E questo sconosciuto deve in qualche modo conquistarsi la fiducia, la curiosità, l'interesse. Deve capitare, ma credetemi, non è per... Non c'è narcisismo in quello che sto dicendo, è vero. Bisogna che l'intervistato a un certo punto senta il desiderio di sapere qualcosa di te. Proprio anche semplicemente abbia bisogno di sapere perché hai scelto proprio lui o lei come intervistato. E questo è così. Per loro mi chiede, comprendi ancora. Sì, io credo che le interviste migliori sono quelle dove si stabilisce, anche se magari solo provvisoriamente per quelle due ore dell'intervistatura, rapporto di amicizia. Le amicizie sono anche amicizie molto transitorie, ci possono essere amici di mezz'ora, diciamo, se in quella mezz'ora c'è un'intensità che dimostra qualcosa di più che non una banale curiosità. E se questo succede, avviene anche che non è così estrema, a me è successo molte volte, insomma, che l'intervistatore diventa anche intervistato, capito? A me, non so, è successo con Fellini, di cui dopo questa intervista sono anche diventato amico e ci siamo visti molto spesso fino alla morte, ma che Lui era incuriosito da me perché ero un critico estremista, perché l'aveva attaccato, perché scriveva, perché ero il 68, perché tutte delle immagini che si era fatto di me abbastanza generiche, e per mezz'ora lui ha interessato me e io non riuscivo a liberarmi da questa cosa, che dico: guarda che io sono qui per te, non per raccontarti la mia vita, no? Ah, però se non fai questo io poi non mi sento a mio agio e quindi non mi fido, capito? Prima mi devo fidare. Perché tu arrivi qui a intervistarmi, però sei anche uno che mi ha attaccato più volte. Voglio capire se lo scontro o l'incontro sono una cosa seria che mi interessa, e se no, vedrai, molto, molto giudicatamente. Cioè, e questo elemento dell'amicizia, in alcuni casi, credo nel caso di Maria, sia un elemento fortissimo. Leggendo queste interviste, che ognuna delle quali è diversa dall'altra, vi vorrei solo dire i nomi di alcuni degli intervistati. Toni Morrison, Cinzia Orzic, Kurt Vonnegut, James Hillman, Edouard Said, Don DeLillo, Louise Bourgeois, Ann Michaels, Arthur Penn, Ruto Zecchi, John Berger e per finire uno dei miei idoli narrativi, che è Ed McBain, che è l'inventore del distretto 87, il più grande giallista americano, l'equivalente americano di Maigret. Diciamo, solo che Maigret è un commissario, lì invece c'è una squadra e c'è una città, il grande narratore della metropoli americana, a partire da un gruppo di poliziotti, in cui alcuni carogni, alcuni buoni, alcuni straordinari, alcuni vittime, alcuni carnefici. Ha inventato un mondo. Per esempio, io ho scoperto che Ed McBain, dalla tua intervista, era di origine lucana e si chiamava Salvatore Bombino. Questa cosa per me è stata una vera rivelazione, perché avendo letto per tutti i suoi libri questa cosa mi era sempre sfuggita, no? E se l'avevano scritto in faccia. Cioè, sono anche uno scopre delle cose, cioè scopre che il distretto 87 è stato possibile perché era l'occhio di un figlio di immigrati, contadini lucani, che si confrontava con la grande città e con la grande cultura americana, no? Però forse qualche flash su alcune di queste interviste sarebbe, credo, interessante di saperlo, perché un po' nel libro lei li racconta, le situazioni vengono raccontate, fanno parte dell'intervista, sono interviste fortemente narrative. La domanda è una domanda lunga che non contiene solo la domanda, ma contiene anche una descrizione del momento, della situazione, tipo questa della Burbana che raccontavi ora. Però sono anche delle perlustrazioni, come dire, gli autori che tu ti sei andato a cercare sono dei grandi in proprio, ma sono anche dei rappresentanti di una cultura, di un'epoca, di un pezzo di storia, americano o non americano. Vonnegut è, anche se quando tu l'hai intervistato nessuno se lo filava, no? Aveva solo dei fans in Italia, credo, in quel periodo, poi è ritornato di gran moda e è adesso considerato il grandissimo scrittore, uno dei più grandi scrittori americani del secolo scorso. Perché? Perché relegato nell'ambito della fantascienza, no, dell'humor, era sacrificato lì dentro, no? Allora, un po' di queste situazioni, oppure Cinzia Orzic, con una lucidità spaventevole. Prima, mentre parlavi dei minimalisti, Cinzia Orzic, lei gli chiede cosa, Maria chiede alla Orzic cosa pensa dei minimalisti, dice: ma perché parlare di queste cose? Tra 5 anni nessuno si ricorderà che sono esistiti. Dopo 2 minuti gli dice: ma cosa pensi adesso? Era l'epoca della voga nella critica del decostruzionismo e di Derrida. Dice: cosa pensi del decostruzionismo? Ma perché parlare di queste cose? Tra 5 anni se lo saranno scordati tutti. E aveva perfettamente ragione. Dunque, bisogna dire una cosa che secondo me è importantissima, perché non soltanto perché voglio bene, l'ho preso, ma perché questo è stato un lavoro di squadra, in qualche modo, anche se non abbiamo mai teorizzato la squadra, ma io ero a New York in quegli anni e ogni tanto io lavoravo molto volentieri. Lavorare non è la parola giusta, perché il lavoro si accompagna al denaro. Di solito il lavoro viene pagato, invece in quel caso il lavoro non veniva pagato, ma dava un altro tipo di... Io lo consideravo un lavoro politico, quello che facevo per Linea d'Ombra e che continuo a fare oggi per Lo Straniero. Allora, io per Linea d'Ombra e anche per altre riviste, l'Appis, che era una rivista appunto di femminismo, di scrittura femminile, di ragionamento politico femminista, In Italia non si sono mai incontrati molto i pensieri politici femministi o politici tout court. Io tentavo con queste doppie collaborazioni, per me molto politiche, entrambe tentavo di mettere insieme dentro di me queste due dimensioni politiche. Non si sono mai incontrati propriamente fuori, ma insomma. Cosa succedeva? Sia per Lapis che per Linea d'Ombra, per Lapis decidevo io, ogni tanto decidevo che volevo intervistare qualcuno e non chiedevo niente a nessuno, lo facevo e basta. Invece per Linea d'Ombra era un po' diversa la cosa, perché ogni tanto ero io, ma ogni tanto era Coffredo che mi diceva: non intervisteresti mica Vonnegut? E lì succedeva una cosa molto bizzarra. Io di Vonnegut avevo letto alcune cose, non sapevo neanche dove abitasse. Però, insomma, cose che si possono fare nel resto del mondo, in Italia no, mi attaccavo al telefono e nel giro di veramente 48 ore io avevo l'intervista fissata direttamente da Vonnegut che mi mandavo, io avevo telefonato alla casa editrice, avevo chiesto, nel giro di 48 ore io ricevetti questa letterina manoscritta da Cor che diceva: vieni, siamo vicini di casa, praticamente abitavamo a due blocchi, ma io non lo sapevo, a due isolati, non lo sapevo, e così fatto. Però, appunto, la scelta di questi autori, di queste autrici, spesso era una scelta che mi arrivava da te. Anche la Hozik. La Hozik, che è una grandissima, ma io l'ho scoperta grazie a Goffredo, perché Goffredo mi telefona e dice: mi interesserebbe avere un'intervista con la Hozik. Io mi precipitai in libreria, lessi tutto quello che riuscivo a leggere in un arco di tempo molto breve, perché l'intervista l'avevo fissata subito, e incontrai Hozik, che si è rivelata una persona straordinaria. E credo che tutte e due ci ricordiamo l'intervista, e adesso vi dico anche perché. Uno, sia con Lapis che con Linea d'Ombra c'era questa cosa che io continuo a pensare come un vero privilegio. Le interviste potevano essere ampie, potevano essere lunghe, articolate, non avevano un tema obbligato, non erano in funzione del lancio di un nuovo romanzo, di un nuovo saggio, di un nuovo film, non erano ufficio stampa, non erano il prodotto dell'ufficio stampa di qualche casa editrice, erano il prodotto di una passione da lettori, da lettrici e da persone che credono che sia importante mettere insieme il più possibile dei pensieri che si ritengono ben pensati e utili e necessari e che è prezioso far circolare nel mondo. Per cui, essendo io là e Goffredo qua, questa Cinzia Hozik, per esempio. Cosa successe con Cinzia Hozik? Io mi ero, in quel caso, visto che appunto mi ero preparata un po' in fretta a quell'incontro, mi ero preparata alcune domande, tre o quattro, forse di più. A un certo punto, da una risposta data da Cinzia Hozik, io partii per una mia tangente assoluta, perché lei mi parlava del personaggio di un suo racconto, che è il Golem, e subito dopo mi si era messa a raccontare di sua figlia adolescente. La cosa faceva talmente cortocircuito che io mi interruppi, la interruppi e dissi: ma Cinzia, il Golem è tua figlia? E lì ci fu come un momento di... come un momento... lei si fermò a pensarci. Dopodiché mi disse: è vero, io non avevo avuto il coraggio di pensarci. Il Golem è quella figura per cui qualcuno ti fa e qualcuno ti disfa, che è la figura materna per definizione, no, non proprio, in molto di casi, ma molto spesso, diciamo, ha questo potere, per tante altre cose. Ecco, a distanza di... perché oggi tu credo averlo intervistata nell'83, 84, 85, mi manda ancora i suoi saluti, sono passati tantissimi anni. Per fare un esempio di qual è quel momento che deve esserci in un rapporto di intervista, che deve esserci, perché se non c'è, non succede niente per nessuno, certamente non succede niente per i lettori. È come se si fermasse tutto. Io potrei dire che questa metodologia, se vogliamo chiamarla così, per me è vitale, ma nella vita di tutti i giorni, è così che si entra in relazione. È così, non può essere che così, deve esserci, e quindi bisogna creare un setting che per me è anche un setting politico, in cui davvero ci si interessa reciprocamente. Davvero c'è un vantaggio reciproco a starsi ad ascoltare, e si riporta tutti a casa qualcosa. Un dettaglio che sembra tecnico, ma non lo è. Io ho molto intervistato usando il registratore, lo tenevo lì accanto e ascoltavo. Il mio mito, il mio modello, ma l'ho scoperto dopo, è Truman Capote. Truman Capote riusciva a intervistare per 3 ore, a non prendere appunti, a non registrare e a riportare il 95% di quello che aveva ascoltato. Le sue interviste sono tra le cose più belle che io abbia mai letto. Quella Marlon Brando, per esempio, eccezionale. Marilyn Monroe. Cioè, sono perché lui poi vetriolico, nel senso che Truman Capote era uno straordinario perché riusciva a amare e detestare i suoi intervistati, per cui li faceva venire fuori a tutto tondo, nel bene e nel male. Ecco, io lì per esempio non ci sono mai arrivata così precisamente, qua e là c'è qualche elemento, ma siccome appunto a me non piace intervistare le persone che non mi piacciono, spesso forse ogni tanto c'era un eccesso d'ammirazione, che non era deferente, era ammirazione. Prima parlavamo della Cederna, a me veniva in mente adesso mentre parlavi un'altra grande intervistatrice che aveva un metodo un po' mescolato, un po' ritratto, un po' che era Oriana Fallaci ovviamente. Oriana Fallaci andava a intervistare una persona come, non so, Joy Lewis saliva sul ring per combattere contro Walcott, insomma erano dei match, dei veri e propri match, con qualsiasi persona che lei intervistasse. Arrivava aggressiva, cioè il suo metodo era l'aggressività e come dire, tu credi di essere un genio, non lo sei, ti spiego io perché non lo sei, adesso mi devi rispondere alla pari, perché no. Mentre la Cederna era un metodo sinuoso, diciamo, no? Circuente, le buone maniere, sempre molto sulle sue, mai, però insomma alla fine si faceva accettare perché era estremamente ben educata, capito? Certo, il contrario, certo. Insomma, però senza piaggeria, senza nessuna piaggeria mai. Milano-Firenze anche. Ecco, Milano-Firenze, due metodi, insomma, due borghesie diverse, direi proprio, due culture antropologiche, antropologiche diverse. Tu in mezzo a queste due dove dovete infine? Io trovo che Oriana Fallaci è straordinaria, lasciate stare il pensiero politico di Oriana Fallaci, però una grandissima, ma persino io ricordate l'era il 2003, quando lei scrisse una delle ultime cose che ha scritto, che il Corriere della Sera pubblicò con un bellissimo spazio, che era un'invettiva politicamente vergognosa, ma dal punto di vista del genere invettiva, la grandiosità, su quella che invitava i cittadini di Firenze a blindarsi in casa, a tirare giù i bandoni, cosa che fecero, peraltro, vergognandosi il giorno dopo, ma lo fecero. Ecco, lei era una maestra nel genere invettiva, che è un genere nobile nella letteratura italiana, più nel passato, se vogliamo dirla tutta. Perché era figlia di Malaparte. Figlia di Malaparte, ma poi Carlo Levi. Sicuramente andare molto indietro. No, io non riuscirei mai a fare la... Ma poi, secondo me, lei aveva più da letterata che da giornalista, in qualche modo. Per esempio, vi ricordate, chi l'avesse letta, quell'intervista che lei fece a Arafat? Sì. Che era piuttosto live, effettivamente, da vedere. Però lei insisteva molto sulla fisicità, che appunto di nuovo fa parte dell'investiva, parlare delle labbra dell'intervistato è un modo appunto classico ma molto preciso di depistare l'attenzione dai contenuti del discorso. E poi lei appunto faceva anche la scelta dei suoi intervistati e interessanti, quasi tutti uomini di grande potere, e quindi è Camilla Cederna, che però neppure è il mio genere, non saprei come dire. Volevo dire una cosa che mi è venuta in mente appunto, ho l'impressione, anche se non è proprio così, però spesso è più facile trovare le intervistatrici di sesso femminile oppure di omosessuali come Truman Capote, non eri solo. Stavo pensando adesso, è un pensiero proprio a ruota libera, spesso gli intervistatori di sesso maschile e eterosessuali la sanno troppo lunga per intervistare gli altri, è come se sapessero loro che cosa vogliono sentirsi dire. E dopo appunto, sapete poi che non è che uno fa l'intervista, poi l'intervista si scrive da sola, l'intervista dopo bisogna pure scriverla. E siccome normalmente si sta con l'intervistato, l'intervistata più a lungo di quello che anche un'intervista lunga permette, bisogna fare tre operazioni. Trascrivere se si è registrato, scegliere quello che si tiene, quello che si scarta, e tre, montarla. C'è un lavoro di montaggio nell'intervista che è enorme, per cui io capisco che alcuni intervistatori scelgano la forma del ritratto, perché il ritratto è un'altra cosa. Cioè tu ti fai e poi vai a ruota, fai tu in qualche modo. Invece l'intervista, quella domanda e risposta, chiede una grande selezione e una grande è laborioso sul piano proprio dell'ordine delle, che non può essere un tradimento dell'ordine del discorso che c'è stato, ma non può essere neanche semplicemente la fotocopia, perché è bruttissima la fotocopia di un'intervista. Quindi, ecco, no, per, non so, però è un pensiero estemporaneo. Sì, a volte succede anche che uno rinuncia all'intervista, talmente gli piace la persona che è davanti, che non lo intervista più, si parla ma si scorda di attaccare il registratore. A me è successo una volta con Luis Buñuel, e ancora me ne pento, perché comunque era una chiacchierata significativa, diciamo, per me, non per lui, perché, certo. Però siccome lui non diceva mai le stesse cose, quindi no, era comunque una cosa diversa. Però può succedere questo, perché comunque tu hai davanti delle personalità che hanno dato, in genere sono persone più anziane di te, molto spesso, o anche se non sono più anziane, più geniali, ovviamente più geniali, insomma, se tu hai anche un coetaneo, ma un coetaneo che ha scritto un libro meraviglioso, ha fatto un film stupefacente, tu stai lì veramente in posizione di ammirazione e di, no, ti intimidisci. Ti intimidisci non della persona, ti intimidisci di quello che quella persona è stato capace di fare, capito? Ti senti una nullità rispetto alla bellezza dell'opera che questa persona ha prodotto. E allora lì è fondamentale l'altro, è fondamentale il regista, è fondamentale l'artista, perché o loro capiscono questa situazione oppure diventa una scena muta dove nell'uno nell'altro riescono a trovare la chiave giusta per l'eccesso di ammirazione, anche sì, un limite, capito? Bisogna andare un po' aggressivi, bisogna tirare fuori qualcosa da quella conversazione. A volte sei riuscito solo dopo molto tempo a avere questo appuntamento, anche con una certa fatica, ci tieni, perché nel prossimo numero della rivista vuoi che ci sia un'intervista con quell'autore lì, perché in quel momento ti sembra importante farne parlarne, eccetera, eccetera, e quindi devi, no? Devi tirar fuori qualcosa. E quando ti trovi in situazioni in cui ti geli, ti intimidisci, è una situazione molto... È successo con chi? A me è successo con Buñuel, è successo anche con Fellini, appunto, la prima volta. Molto... Ho perso il microfono. L'ho dato. Me l'ha dato a me, scusa. Io ce l'ho, dai. No, adesso ce l'ho. No, voglio sapere, che è successo con Fellini? Con Buñuel. È successo con Antonioni, in una situazione molto estemporanea, perché allora ero un grande ammiratore Antonioni e mi trovai all'apertura di un museo dove c'era una grande mostra di Klee a Parigi, e mi trovai che eravamo tre o quattro persone, era inverno, faceva un freddo cane, insomma, era un lunedì o un martedì, non mi ricordo, non c'era folla, e c'era questa immensa e bellissima mostra di Klee, davanti a me c'era Antonioni, e allora io osai presentarmi, salutarlo, e lui, devo dire, in un modo per me indimenticabile, non era il mio regista preferito, sia chiaro, quindi, però mi spiegò che mi fece una lezione, due o tre sale da soli, guardando avanti e indietro, eccetera, eccetera, era italiano, eravamo a Parigi, insomma, mi spiegò che. E allora gli chiesi, alla fine osai dirgli che scrivevo di cinema e chiedergli un'intervista, eccetera, lui mi dette un recapito, un tempo, e non gli ho mai fatto l'intervista, perché quella mezz'ora con lui lì mi ha talmente intimidito, perché intanto mi ha costretto a rivedere le mie posizioni su Antonio, ma ho capito che non era certamente il grandissimo regista secondo le mie corde, ma certamente era un maestro della visione, era un maestro dell'immagine. Forse la cosa più straordinaria dei suoi film è che ha reinventato la fotografia cinematografica, il modo di guardare, di legare tra loro le persone, gli oggetti, gli ambienti, le strade, le case, no? Pensa alla passeggiata, poi è diventata quasi una parodia, perché tutti l'hanno ripetuta, ma la passeggiata di Jean Moreau prima di entrare in ospedale a trovare un amico morente per le periferie di Milano. Sono 5 minuti di cinema straordinario, dove non succede niente, ma ovviamente succede tutto. Insomma. Però è tutto risolto attraverso l'immagine, non il racconto, non la tesi, non il dialogo, no? un altro tipo di approccio. Comunque no, questo adesso ci porta in un'altra direzione, ma era per dire che a volte uno rinuncia all'intervista perché non si sente in grado di... No, io in quel caso ho rinunciato perché mi sarebbe piaciuto farlo parlare, però senza clè in mezzo, farlo parlare di immagine, di fotografia, di luce, di rapporti volumetrici tra le cose e le figure. Non me la sono sentita perché non ero preparato per un discorso del genere, ero più un critico banale, contenutista, estremista, un po' idiota, e non ce l'avrei fatta, e non ho rinunciato. È interessante che ogni tanto mi sono detto, poi mi sono detta che probabilmente un tot di ignoranza e di incoscienza serve soprattutto per, come dire, non farsi troppi problemi di questo tipo qui, perché se adesso, col senno di poi, se io penso che a un certo punto, giovanissima io, senza nessun pudore andare a intervistare delle persone che solo adesso capisco quanto erano grandi e quanto mi stavano insegnando, ma forse tutto sommato anche quella specie di, non so, per esperienza anche con una vera, straordinaria, candidissima curiosità che loro apprezzano. In generale grandi, proprio perché sono grandi, non giudicano, anzi, sai che io ogni tanto penso che sia una boccata d'aria fresca avere delle persone che non arrivano lì con tutti i loro schemi, che vogliono davvero capire, che vogliono davvero stare, in qualche modo guardarli nella loro verità, credo, perché se no non si spiegherebbe, perché appunto come io me ne sono andata in alcune circostanze delle interviste che non mi piacevano, io ho anche visto degli intervistati interrompere l'intervista con altri giornalisti per fortuna dicendo non ho tempo da perdere, insomma. Vabbè, una delle poche grandi battute di Nanni Moretti è quella come parli, dell'intervistatrice un po' stupidina. Sì, cioè, appunto, perché ogni tanto devono avere della pazienza lassanti, soprattutto, scusate, visto che qui siamo in un contesto analogo, ma in Italia ormai da alcuni anni c'è questo formatone 4 giorni di abbuffata letteraria o artistica. Immaginatevi il povero scrittore, la povera scrittrice, di solito sono letterature, che nell'arco di 4 giorni deve parlare magari 2 volte, 3 volte e poi lasciarsi intervistare dai giornali nazionali più importanti, che di solito vanno a macchina, perché anche loro in quei 4 giorni devono andare. Ma che orrore! E infatti ogni tanto i lettori o si rifiutano, ci sono degli scrittori che rifiutano di rilasciare interviste, pure le accettano, ma li vedi soffrire. Per esempio, una cosa importantissima, secondo me, nel corso delle interviste è il tempo del silenzio. Non è che tu fai una domanda e dall'altra parte, tac, c'è la risposta in automatico, come se tu pigiassi un bottone e quell'altro ha la risposta. Se uno deve pensare alla risposta, avrà diritto di prendersi del tempo di silenzio. Normalmente l'intervistatore, che io vedo in azione in Italia, forse perché non ha tempo, lui medesimo, si agita, cioè se vede una pausa di silenzio la prende subito come una cosa, oddio adesso cosa succede? E parte con la domanda successiva, o con la terza, proprio se maestro di questo tipo di dinamica è John Borgio. John è fantastico perché lui effettivamente non si ripete mai. Quindi bisogna dargli il tempo di pensare, e mentre pensa, non solo sta zitto, ma si tormenta la faccia, i capelli, bisogna respira profondo, cioè può anche spaventare l'intervistatore, soprattutto se è giovane, dice: oddio, adesso cosa succede? E mi è capitato di vedere appunto questi intervistatori, non so, di quelli iperproduttivi, che incalzano con delle domande, quindi il silenzio diventa sempre più pronto. Alla fine hai solo il silenzio, e allora vai a raccontarla tu un'intervista fatta di silenzi. Cosa fai? Secondo me sarebbe la sfida più bella del mondo. Un intervistato che risponde con dei lunghi, tormentosissimi e tormentati silenzi. Perché questa è anche le cose degli scrittori e gli artisti in generale. Le cose che avevano da dire le hanno dette molto bene. John dice: io ho messo 10 anni a scrivere questo libro, perché mi viene a chiedere una battuta di sintetizzarglielo? Se lo legga, io ci ho messo 10 anni, ci metto 10 anni lei a leggerselo questo libro. È vera questa cosa, è verissima. Per questo che dico che secondo me gli intervistati amano uno che si presenta e dice: sono qui, e non quello che gli arriva un po' aggressivo, l'artista. Sì, noi abbiamo parlato molto dell'intervistato e dell'intervistatore, non abbiamo parlato del terzo incomodo, che è il lettore, no? Perché in genere queste cose si fanno come anche forma di comunicazione, no? di presentazione. A volte, proprio per le riviste, insomma, a noi è successo sempre così, ci piaceva fortemente un autore e cercavamo di intervistarlo, ci piaceva fortemente un poeta, un regista, un pittore e cercavamo di intervistarlo per amore e perché volevamo che questo amore fosse condiviso dai lettori della rivista. No? C'è sempre un terzo, si fa, no? È una triangolazione ogni volta, l'intervistato, l'intervistatore e il lettore, o il pubblico in certi casi. Ecco, come ti poni tu questo problema quando... È talmente vero questo problema che poi dopo diamo la parola al pubblico qua. Nel senso che io avevo proprio la sensazione in quegli anni, e lavorando per Linea d'Ombra e per Lapis dall'altra parte, che intervistando, quindi creando come una specie di rete di pensieri e di parole, io lo consideravo proprio un lavoro politico nel senso più alto del termine, che era creare come un'area di condivisione di non solo di idee, ma anche di modo di esprimere le idee. Per cui noi eravamo parecchio selettivi, non è che andavamo non so, io prendo lì da New York in quegli anni lì, in tutti gli anni '80, appunto si diceva in un'altra occasione, a me capitava di intervistare delle persone che ormai erano tramontate, ufficialmente tramontate, non erano più di moda, o non erano ancora nessuno, proprio nessuno. Poi dopo un po' di anni abbiamo visto che appunto ci avevamo ragione. Ma avevamo ragione non perché la ragione ce l'ha data il mercato, anche il mercato ha confermato che erano dei grandi, ma soprattutto erano dei grandi che io consideravo necessari per mettere in circolo sguardi diversi, sguardi anche molto dissonanti. Prima dicevo a Mario Cotrato, Mario Sivani dice: dove sono? E lui diceva, pensavo dissonanza, che questa sala si chiamasse dissonanza, invece si chiama risonanza. No, a noi credo siano interessate molto le dissonanze, perché probabilmente a me la categoria pubblico fa un po' orrore di per sé, mentre mi interessa moltissimo l'idea che possano succedere delle cose appunto che da una dissonanza possa nascere invece qualcosa di diverso, che non sai quando fai le cose, ma che senti che potrebbe partire. In effetti sono partite tante cose. In realtà, a pensarci col senno di poi, quelle scelte di quegli anni, se il mercato non avesse fatto la strage che ha fatto, erano tutte scelte che andavano in una direzione molto utile a un buon vivere, a un buon vivere. Cosa per esempio di tutti questi autori, Toni Morrison, nera, americana, africana-americana, nell'82 quando la intervistai si sporgeva appena, era proprio pochissimo conosciuta anche in America, molto lontana dal 9 e poco nota, lavorava ancora per una casa editrice per l'appunto. Said che poi è diventato appunto grandissimo saggista e grandissimo teorico del postcoloniale, però ecco, tutte persone che all'epoca non erano assolutamente ancora famose e che però indicavano delle strade. Pensate che Said, era, non mi ricordo se fosse l'87 o l'88, Said che insegnava alla Columbia University di New York, io lo intervistai varie volte, qui ce n'è una, e io gli chiedevo, ma poteva essere forse il 91, non so, comunque io gli chiedevo qual era il gruppo considerato più pericoloso in quel momento a New York. Perché a New York, in America in generale, c'è sempre un gruppo, il nemico, e lui diceva gli arabi, senz'altro. Non era ancora successo niente di quello che sarebbe, però lui, come del resto Gilman, disegnavano un'America pronta per l'11 di settembre, in qualche modo. Come se molti di questi scrittori, di questi pensatori, avevano una tale capacità lucida di capire il presente in rapporto al passato, da poter anticipare, non in modo profetico, ma in modo molto lucido quello che si stava preparando. Ecco, forse, quando, per tornare alla tua domanda sul pubblico, forse a me interessava, mi interessa tuttora moltissimo, raccogliere i pensieri e le parole di chi può darci, a noi come pubblico, mi ci metto in mezzo, delle chiavi per capire dove siamo e dove stiamo andando. E probabilmente non solo per saperlo, quindi aver paura in anticipo, ma magari fare qualche così da preventare. Sì, anche per me è sempre stato molto importante far condividere un amore, far condividere un interesse. Cioè, io ho sempre considerato Vonnegut, essendo da ragazzo un lettore forte di fantascienza, che era ancora considerato un genere totalmente secondario e cultura di massa, non vera cultura, soprattutto nella cultura italiana, che già in America era già un altro discorso. Finché l'università non si è occupata di Philip Dick, Philip Dick era considerato uno scrittore di genere, poi pian piano si sono accorti, e lo stesso è un po' successo per Vonnegut. Però più ancora che Dick, Vonnegut era un perfetto scrittore, diciamo così, sessantottino, con in più l'ironia, con in più l'autoironia, con in più la coscienza, insomma, c'aveva un piglio di novità, di irriverenza, di lucidità, ma diversamente dal 68 europeo, con un grande amore per l'umanità, un grande, non proprio una generosità che il nostro 68 non ha avuto assolutamente, insomma, era chiuso su se stesso, e, no, amoroso di sé, diciamo, non molto di più che non del mondo circostante. Ecco. Allora, far entrare Vonnegut dentro questa cultura mi sembrava un'impresa. Ci siamo anche riusciti, perché poi, devo dire, in quello su Linea d'Ombra, costringendo a leggere Vonnegut, letteralmente costringendo Stefano Begni e Grazia Cherchi, che erano due portatori di valori pubblici molto più forti di me, e loro hanno fatto poi un'opera, quello che non eravamo riusciti a fare noi l'ha fatto loro, cioè a forza di parlarne, di scrivere e di citarlo, Vonnegut diventò un autore che finalmente non si trovava solo sulle bancarelle, ma veniva ristampato dai grandi editori, che ormai è un classico in qualche modo, tra i grandi scrittori del Novecento americano, ripeto. Ma appunto questo bisogno di condividere un amore, che secondo me fare le riviste è un po' questo, insomma, implica per forza una diciamo pure una generosità, insomma, implica il fatto che se si è convinti, non io personalmente, ma un gruppo di persone, una redazione, che quella cosa è importante, quel libro è importante, quel film è importante, bisogna fare tutto quello che si può perché quel libro diventi importante anche per altre persone. Questo per me è stata una molla fondamentale nello scegliere gli intervistati, nel dire adesso è il momento di andare a pescare questa persona qui. E tra l'altro, sono talmente d'accordo, tra l'altro questa cosa è esattamente il contrario della moda, nel senso che è proprio così, non c'è tuttora, la cosa più straordinaria che può capitare è non scoprire un nuovo autore, ma riscoprirne uno che è stato dimenticato in qualche modo. Però adesso, se ci sono delle domande... Sì, io sono curiosa, perché lei ha detto che ha vissuto molto a New York e ha lavorato a New York. Perché? Arriva. Sì, mi incuriosisce sapere se lei vede una differenza tra gli intervistatori, intervistatrici italiani e quelli americani. Mi viene in mente Danny Rose, piuttosto che adesso, essendo vecchia, ho perso la memoria, l'afroamericana famosissima che pomeriggio alle 4 interversa sulle reti americane. Mi ricordo come si chiama? Sì, famosissima. Ma insomma, se lei trova una differenza tra le intervistatrici, intervistatori italiani e quelli americani. Lei parla di televisione però? No, no, parlo di Danny Rose, sì, no, non soltanto, anche nel suo caso. Sì, sì, no, ma noi abbiamo molto da imparare. Diciamo che in Italia c'è molto da imparare in questo campo. Gli americani sono professionali e la fornice è la stessa che si diceva prima a proposito della Cederna e della grande inventivista della Oriana Fallaci. Per esempio, le interviste televisive americane più belle sono quelle in cui molto civilmente, a differenza dell'intervistatore e intervistatrice italiana che incivilmente lo fa, là molto civilmente possono mettere in difficoltà gli intervistati. Questo in particolare ovviamente quando le interviste sono con personaggi del mondo politico o economico, della finanza. Se invece, perché in cervello non si può parlare genericamente di intervista, bisogna vedere chi sono gli intervistati. Artisti, scrittori, filosofi, politici, economisti, banchieri, re, regine, cambia completamente la cosa. Gli intervistatori americani dei personaggi appunto della vita politica eccetera, secondo me, a differenza dei nostri, che oscillano in generale oggi tra servilismo, cioè proprio, oppure rabbia, furia, aggressività, allora tanto vale sarebbe meglio fare pugni, non lo so come dire, ed è anche secondo me tenendo conto del pubblico. Io per esempio trovo che guardare la televisione in Italia nuoce gravemente alla salute in questo senso, perché a me è fastidio, Sì, poi non è ancora un'altra cosa, cioè le riviste americane, i giornali americani pagano e danno il tempo giusto, necessario per l'elaborazione dell'intervista, la realizzazione dell'intervista e la scrittura dell'intervista. Le interviste che escono, che ne so, su New York, su alcune, su Atlanta, come si chiama? Sì. Sono delle grandi interviste, sono delle interviste pensate. Qui c'è questa corsa, no? Continua alla moda, all'attualità, all'ultima cosa arrivata, quello di cui tutti parlano. Non c'è mai l'agio di potere, no? Questo una volta c'era, perché appunto abbiamo avuto anche grandi intervistatori, non solo le donne, perché ci sono stati anche sul piano politico, che ne so, Giorgio Bocca, o cioè, grandi intervistatori, grandi giornalisti, che però si davano il loro tempo, avevano bisogno di una fase di produzione dell'intervista. La stessa cosa succede con le inchieste oggi, le inchieste giornalistiche sui giornali sono delle piccole stupide parodie, le uniche inchieste decenti sono quelle che i giornalisti scrivono in forma di libro, perché gli editori, proprio perché l'editoria giornali sono sempre più veloci, rapidi, superficialissimi, gli editori invece hanno scoperto che il genere inchiesta anche un suo pubblico, ha una sua funzione proprio perché dall'altra parte non c'è più e quindi finanziano anche, o comunque pagano benino, mai con i criteri americani, però pagano chi fa un'inchiesta, sanno che per fare un'inchiesta buona ci vogliono non delle 3 giorni con 10 telefonate, ma ci vanno mesi. Bisogna andare sui posti, intervistare, capire, muoversi, insomma, poi elaborare, scrivere, insomma. È un altro tipo di rapporto, è un problema anche qui credo di professionalità e di rispetto del lavoro intellettuale, che qui non c'è, perché il lavoro intellettuale è un lavoro pienamente servile, proprio come sempre in antica Roma sono, no? La sottocasta, una sottocasta quella della comunicazione. Va bene, dobbiamo lasciare il posto a una nuova ondata di, però, di argomenti seri, e quindi lo facciamo anche volentieri. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.